I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Che dal vertice dell'Eurogruppo, ossia dei ministri economico-finanziari dell'area euro di ieri sera, non sarebbe uscito un accordo per la Grecia, era altamente probabile. Tutto è rinviato a metà mese, c'è un Consiglio europeo, ma soprattutto le posizioni restano ancora molto distanti tra le richieste della Grecia, che sostanzialmente chiede di rottamare almeno un terzo del vecchio programma di riforme concordato con la Troica, quindi con Bruxelles, con la Banca Centrale Europea e con il Fondo Monetario Internazionale, e il fronte invece più rigorista, a partire dalla Germania, di chi dice la Grecia deve accettare gli aiuti della Troica e continuare sul fronte delle riforme, altrimenti è finita. Più volte abbiamo detto che in realtà la tattica l'avrebbe fatta da padrone in questa prima fase delle trattative. Ognuno dei due contendenti cercherà di ottenere il massimo possibile per poi eventualmente arrivare a un accordo. Purtroppo però in Germania da un lato e nel resto d'Europa dall'altro c'è chi inizia a ragionare su una possibile uscita della Grecia, la cosiddetta Grexit, come se alla fine questo dovesse essere il minore dei mali se la Grecia non volesse accettare i patti già firmati con la Troica. In realtà a molti altri osservatori sembra che questa ultima possibilità, ossia una Grecia che esce in qualche modo dagli accordi europei, sia il peggiore dei mondi possibili. L'Europa infatti si troverebbe stretta da un lato dalla crisi di un'eventuale uscita della Grecia e dall'altro da una crisi il cui esito è tutt'altro che scontato, che coinvolge Unione Europea e Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra sul fronte ucraino. Due fronti aperti nella politica estera ed economica europea sembrano a molti davvero troppi da poter essere gestiti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Parliamo di banche. È stato lo stesso Renzi oggi a dover intervenire per spiegare che le banche italiane sono solide, e in gran parte è vero, ma in queste ore ci sono diverse partite che rischiano di creare confusione sul settore. C'è una prima partita sulle banche popolari, sono oggetto di una riforma radicale per cambiare la governance, bloccata finora da lobby di sottogoverno, e favorire ormai le aggregazioni per aumentare l'efficienza dell'intero settore. Su questo c'è pure il sospetto di speculazioni da insider trading e non a caso indaga la Procura di Roma. Oggi poi ci sono 16 banche commissariate dalla Banca d'Italia per gravi lacune nella patrimonializzazione. L'ultima è Banca Etruria, appunto un'altra banca popolare. Del Monte dei Paschi, cenerentola del settore, da qualche tempo si è scoperto che ha una perdita superiore alle attese e dovrà mettere in campo un aumento di capitale fino a 3 miliardi. Carige, altra banca da rimettere in assetto con una probabile fusione, ha una perdita di 543 milioni. Il Banco Popolare ha fatto pulizia sui crediti e ha ora un rosso per 1,9 miliardi. Biper ha deciso di tagliare 130 filiali e di ridurre del 5% il personale. Unicredit e Intesa sono colossi ormai che hanno messo a segno brillanti performance di bilancio e sono in grado di competere nel mondo. Le banche italiane, dopo gli stress test della BCE, che ora vigila su gran parte del settore, insomma stanno rimettendo a posto i conti con fatica. Non è sbagliato pensare in questo momento a una bad bank che possa raccogliere la gestione delle partite difficili. Oggi ci sono 180 miliardi di prestiti in sofferenza e 330 miliardi di crediti deteriorati. Per consentire alle banche quindi di concentrarsi sulle azioni di supporto alla crescita e agli investimenti. L'importante è che questa operazione sia ben congegnata e non configuri un regalo al settore. È difficile, ma non è impossibile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.